pace, amore e libertà. Ve la racconta il sottoscritto Nini Rodotà. Serata, ogni altra formalità, che in momenti come questo ogni buon cuore fa. Continua a credermi un deficiente.